This World All Dues. Allora, questi sono i Kiss e con i Kiss diamo il via alla Nottedo. Allora, benvenuti a bordo, una nottata finalmente mi toccava e quindi sono qua, ci stiamo preparando. Allora, come detto, ci sarà una fortissima jam session oggi pomeriggio, abbiamo già avuto diversi ospiti e questa sera alcuni di loro si sono fermati, infatti abbiamo tutti il maniscalco maldestro al completo, abbiamo anche un paio di membri degli Acamporas che per adesso si continuano a chiamare Acamporas, abbiamo il Matthews, insomma c'è tantissimo rock and roll nelle vene dei personaggi che sono qua. Vi ricordo i contatti sono sempre gli stessi, rimangono sempre quelli, la linea SMS 335 100 77 77, con la quale potrete sbizzarrirvi via SMS, naturalmente siete ancora svegli, se avete ancora la forza di subire questa enorme ondata di rock and roll che vi regaleremo questa notte, soprattutto di musica dal vivo, visto e considerato che insomma questo pomeriggio, da un paio di giorni a questa parte, almeno per quello che riguarda questa ultima settimana di Rock FM, insomma la musica dal vivo e le jam session a Rock FM non sono assolutamente mancate. Oggi abbiamo avuto oltre al Maniscalco Maldestro i Movida che si sono riformati per noi, abbiamo avuto i Ministri, abbiamo avuto gli After Hours, abbiamo avuto la PFM poco fa che ci ha fatto sognare e quindi si va avanti, questa volta si va avanti nella notte con un bel po' di rock and roll con la Nottedo. Allora, la selezione musicale ovviamente presa, come detto, dalla mia personalissima discografia, quindi tirerò fuori gli scheletri nell'armadio. Cominciamo con un disco al quale io mi affezionai molto, si tratta del primo EP degli Ugly Kid Joe, uscì nel 1991 e gli anni 90 la faranno parecchio da padrone all'interno di queste ore che passeremo insieme. Era un EP che uscì tanto per intenderci, per capire se i ragazzi avevano delle potenzialità nel mercato, ed effettivamente grazie al singolo Everything About You dimostrarono di averle. Però c'era una canzone all'interno di questo disco, a parte la, l'accenno, la cover a Sweet Leaf e cose di questo tipo, c'era una canzone che mi piacque molto, che non finì poi sul loro primissimo disco, che si chiamava Too Bad. Questi sono gli Ugly Kid Joe. We'll be right back. Viva Rock FM, viva quello che è stato Rock FM, la notte più inquieta, no vabbè, la Nottedo. Allora, ancora benvenuti, il DJ Edo Rossi alla voce. Ci sono un po' di ospiti adesso qui in studio che stanno preoccupandosi di mettere a posto un po' gli strumenti, di accordarsi e un po' di cose di questo tipo. Allora, purtroppo sta succedendo anche a me, come succede a Mox, che rientra il cellulare nella testina del giradischi. Perché? Perché non ho voluto assolutamente mancare di poter trasmettere anch'io qualche vinile preso esattamente dalla mia collezione. C'è il fratello Mox ancora nei paraggi, perché so che più tardi suonerà con me, però è distante. Peccato, gli dedico questa canzone che è una delle mie preferite e so benissimo che anche lui apprezzerà moltissimo. Sto parlando degli Aerosmith. Questo disco è un disco che risale al periodo degli Aerosmith degli anni 70, essere preciso del 76. Si chiama Rocks, è un disco essenziale per molti chitarristi, è un disco essenziale in generale per la storia del rock. Questa è una delle mie canzoni preferite del disco, si chiama Rats in the Cellar. gli Aerosmith. Mamma, gli Aerosmith del 76, che botta. Poi tra l'altro trasmesso in versione vinile, mamma mia che botta, porca miseria, c'era proprio questo calore, si sentiva. Ah, quanto capisco Mox. Mox che tra poco verrà a percuotere le pelli, anzi non in realtà le pelli, parleremo dopo di che cosa percuoterà, a parte voglio dire quello che percuote sempre, che vabbè, lasciamo perdere. Oh, stai calmo, non è che ci sono qua io, allora sono autorizzato. Mox, hai sentito che pezzo che ho messo? Sì, però ho anche una reputazione da... Allora, dunque, rispondo un po' di sms arrivati al 335-100-7777. By night. Ciao Maurizio, grazie, buona serata, buonanotte. Salutiamo il collega Maurizio Faulisi. Allora, un saluto ad Andre che dice: fratello, siamo pronti a roccheggiare. Caro Andre, sono felicissimo. Poi un saluto a Giorgia che dice: eccomi, spacca e incanta. Grazie Giorgia, davvero. Poi dice Edus di notte, allora è tutto vero, wow, con le donnine all'ascolto della tua voce stanotte, finita l'esperienza con Rock FM, hai già un lavoro assicurato, la Edo Hotline. Mamma mia Mick, grazie mille, un abbraccio anche a te. Poi un saluto a Sandro da Genova che dice: vai Edo, stanotte sono con te, spacca, facci sentire e registrare una nottedo da paura. Caro Sandro, hai scelto la radio giusta. Poi un saluto a... non so, aspetta, leggo così a caso, dice: grande Edo, per l'ultima notte alla radio con te, fammi un favore, fai un saluto alla mia ragazza Elisa che è lontana da me, da Matteo da Ravenna. Cara Elisa, un saluto da parte di Matteo da Ravenna, sono quello che vuole organizzare la serata con la musica. Ah certo, certo, certo, non vediamo l'ora di poter tornare in qualche modo a Ravenna. Poi un saluto ad Andrea da Firenze che dice: radio accesa tutta la notte, registrazione in corso, che dire, facciamola memorabile, Rock FM vive. Grazie Andrea. Un saluto a Manuel invece che dice: io non potevo mancare Edo, non dico cazzate, mi sono preso 4 ore di permesso per poter stare in ascolto il più possibile, dedicami un pezzo degli Alice in Chains, sei, siete, rimarrete sempre nel mio cuore. Grazie mille Manuel, guarda, più tardi gli Alice in Chains pioveranno come vabbè, lasciamo perdere. Poi dunque altri messaggi, un saluto a Minty che dice: come le tue cariandoli a carnevale, come cariandoli a carnevale, grazie Borchia. Allora dice: le tue Rock Family Girls sono qui, ce n'hai per tutte da 30 minuti, è il compleanno di mia sorella Valentina, tanti auguri alla sorella Valentina. Auguri a te, auguri a te, come potete vedere, auguri Valentine. Happy birthday to you. Alla bella lì? Sì. Allora, come vedete non sono da solo. Siamo comunque pronti a roccheggiare, a far festa. Un saluto ad Aldo che dice: sono del 1969 e da 15 anni che vi seguo, non può finire così, puttana troia. Aprite un'altra radio, non ho Sky, pago voi. Grazie Aldo, ce la mettiamo tutta. Siamo sveglissimi, dai Edo, facci roccheggiare fino all'alba. Rock and roll all night, fratello, sarete sempre nel mio cuore, il Mav, anche tu, fidati. E poi altri messaggi che intanto arrivano, vi ricordo, li potete continuare a scrivere al 335-100-7777. Intanto ci andiamo a sentire ancora un disco. Prima di iniziare a gemmare, i primi che gemmeranno saranno niente meno, avremo l'onore di avere, in realtà sarà una cosa un po' in famiglia, un po' in casa, avremo il Matthews e Mox, vi faremo sentire più tardi di che si tratta, ma intanto vi faccio ascoltare una delle mie personalissime chicche che in realtà... i più, insomma, quelli che conoscono già sanno, eccetera, la conoscono, però insomma, ve la faccio sentire tra l'altro in vinile. Si tratta di Communication Breakdown dei Led Zeppelin, rifatta da niente meno che dagli Iron Maiden, periodo 1991. Time. Yes. Grandissimi Communication Breakdown, questi erano gli Iron Maiden insieme, cioè insieme a nessuno, insomma, fatta ma sono già in molti, sono un po', sì, sì. Erano gli Iron Maiden del periodo, no, perché sentivo un po' male il mio microfono. Peter, cosa vogliamo fare? Allora, innanzitutto ringraziamo e salutiamo il grande Peter in the Shadow che per questa sera si presta alla parte tecnica. Grazie Peter. Un applauso, questa sera non si lega nessuno. Aspetta che cerco di capire qual è questo. È l'unico microfono acceso. È aperto anche quello lì, stiamo facendo un po' di prove tecniche, abbiate pazienza, va tutto bene, ok, perfetto. Allora mi seguo qua, vorrei introdurre con un applauso anche il Matthews. Yeah. Grazie Matthews, e naturalmente alla batteria Mox Cristadoro. Batteria mi sembra un esatto, alle percussioni, diciamo. Benissimo. Allora sono qui. Sì, allora io continuo. Ah, ecco, forse così va un po' meglio. Ok, perfetto. Allora, se il fratello Cristadoro si blocca, vi spieghiamo perché siamo qui. Questa è la Nottedo e questa è la Nottedo, yeah, nella quale si gemma e si festeggia insieme al DJ Edo Rossi, e avendo il Matthews qua è per me un grossissimo onore poter suonare un po' con lui e suonare un paio di cose che vanno nel suo campo, eh? Voi sapete il che campo minato. Esatto, voi sapete che il Matthews, oltre che a essere una importante voce, bravissimo Peter, oltre a essere un'importante voce abbiamo capito, perfetto, bene così. Oltre ad aver fatto una grandissima voce, ragazzi, mi state distraendo. Il mio quel microfono. Hai capito? Cioè, proprio a scuola. Cioè, no, dicevo, oltre a essere il DJ a Rock FM per un sacco di cose, per quello che è stato loro tipo special, dai, lo diciamo. Ormai si dicono tutte, ho avuto uno striplamento di personalità. Esatto. Qui, in questa radio ormai non sapevo più a chi rispondere. O mi chiamavano il Matthews, o ero il Chuck Bird, poi il portiere. Ferretti. Il portiere, esatto, Ferretti, insomma, esatto. A un certo punto ho avuto uno striplamento di personalità e chiaramente le spese mediche per il mio psichiatra non me ne paga nessuno, visto che la radio del no ce l'avevo con Mox. Te la dico, queste manacce. Esatto. Niente, il Matthews, oltre ad aver fatto tutta questa cosa, ad essere salito per fortuna a bordo dell'astronave Rock FM in tempo, prima che fosse troppo tardi, ha poi potuto anche darsi al garage, una delle sue passioni, insieme al che ha scoperto di condividere con Faulisi in Garage Land, giusto? Sì, l'ho tirato dentro, gli hanno fatte di cose di crude e alla fine è diventato anche lui un garagista. Infatti volevamo aprire, chiusa l'esperienza di Rock FM, un garage. Un garage, giusto. E ripareremo dei motorini. Tenga le chiavi, buon uomo. Bene, ma noi siamo qua per suonare ed è un piacere poter provare, e vi chiediamo scusa, e chiedo soprattutto scusa a coloro i quali hanno scritto questa canzone, ossia andarci a fare è per me un onore suonare questo pezzo. Vuoi parlarne tu? Sempre mi ha la patata bollente. Nulla, abbiamo deciso di fare una cosa strana, perché a me non è mai successo di fare un pezzo degli STP con qualcuno che non sia gli STP. Questa è veramente attenzione. Improvvisandolo. No, è una cosa stranissima, quindi per me è anche per me un momento particolare, diciamo, che possiamo esprimere un desiderio come quando si mangia le ciliegie. Esatto. Come primizia. Chissà se va bene la cosa. No, dicevo Edo, guardami per gli stacchi. Mox, come al solito. Come sono... Tra l'altro Mox, per fare queste cose, fa dei gesti che sembrano anche delle cose anche un po' osè. Esatto, io passo metà dei concerti di spalle alla gente per guardare Mox e chiamargli gli stacchi. Ci siamo? Ok, dai, questa canzone si chiama Elo Ele, nel nostro ultimo disco, e vediamo un po' come esce. Sicuramente io mi divertirò. E spero che piacerà anche a voi. Ed è uno dei pezzi più belli della storia del rock and roll. Via la base, Peter. Revolution's gonna come. The little girl started to run. She wants the world, she wants it now. And since she's left this town, and nobody put her down, she wants the world, she wants it now. Should the one will listen? Should the one will miss it? never go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen. Hello, LA. I'm gonna go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen now. She said yes and he says go. Oh, ask up the body, no. He wants a word, he wants it now. And since he left his sound, he never wears a frown. He wants a word, he wants it now. Should I want will listen? Should I want will miss it? Hello, hello, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen. Hello, LA, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen now. Attenzione, Iron Maiden. Ah, mai spavento. Questa è andata ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Complimenti ragazzi. Che gioia, afro. Che gioia. Persone afro però. No, è andata da Dio, Edo, sì. Veramente è andata da Dio. Mi mamma sono... mia.